Io sono morto quest'anno, tutti volevano morire quest'anno. Chi ha vissuto fino a oggi ha visto tutto quello che si poteva vedere. Ha visto i cani nello spazio, gli uomini sulla luna e un robot a rotelle su Marte. Ha visto esplodere New York, Londra e Madrid e non più soltanto Kabul e Baghdad. Ha visto l'ovetto Kinder che trasforma tutti i giorni dell'anno in una Pasqua infinita. Ha visto il latte in polvere, il vino in tetrapack e le fragole con l'aceto. Tutti volevano morire quest'anno perché dal prossimo non si vedrà più niente di nuovo. Il mondo si ripeterà come la replica di una trasmissione andata già in onda. Il futuro sarà un riassunto delle puntate precedenti. Da domani anche lo sterminio sarà uno spettacolo noioso. Questo metodo mi piace, direi di continuare in questo modo. Due tracce, vediamo, ora improvvisiamo due tracce e leggiamo o scarichiamo qualcosa. Mi piace proprio questo metodo e vediamo come funziona. A me sembra che funzioni. Quindi la prossima traccia, la prima è degli Lennox, Sei pur qua, e la seconda dei Maelstrom, Eclectic Dance. Io sono scappato. La sera del giorno appresso mio padre mi ha trovato nel bosco. Io mi ero finito tutta la cacca di pecora che stava nella scatola di caramelle. Ho pensato che se erano pasticche marziane, io mi ero mangiato un gregge di pecora. Mio padre dice che la cacca porta fortuna. Mi ha portato al capanno, ci stava un carabiniere in divisa che mi ha voluto parlare. Mio padre mi ha detto che devi stare attento a quello che dici, attento a non mettere nei guai i tuoi fratelli. Intanto i fratelli guardavano il carabiniere in divisa e gli facevano i gesti come per dire che questo ragazzino è uno strano, deficiente. Quando siamo rimasti da soli, il carabiniere in divisa gli ha chiesto il nome e l'età. Io gli ho detto che io sono Nicola e sono nato negli anni 60, i favolosi anni 60. Poi mi ha chiesto che succede la sera dentro al capanno. Gli ho detto che i fratelli raccontano dei favolosi anni 60. Dicono che adesso ci stanno i figli marziani che si mangiano le pasticche di pollo. E dico che mo ci stanno pure certe donne che leccano gli uomini nidi, le paghe, quelle si consumano la lingua a leccarli. E certe volte qualcuna alla porta di montagna, quando mio padre non c'è, ma a me non mi leccano mai. Lui mi ha chiesto se stanotte hai visto qualcosa di strano. Io gli ho detto che stanotte ho visto i marziani. E poi gli ho chiesto se è vero che oggi sono finiti i favolosi anni 60. E il carabiniere in divisa si è messo a ridere. e mi ha cantato un pezzo di una canzonetta che parla del mare e del sale e di una persona che ha questi sapori addosso. E io ho capito che anche il carabiniere in divisa lecca gli uomini nudi. À nous pour la nouvelle école, pas de bonnes nouvelles, on vit une sale époque, le jeu c'est de baiser l'autre, et t'apprends pas ça à l'école, ne crois pas que je déconne, ici les mômes on dégonne, cette petite plume je te dégomme, et à chacun son dogme, mini-guerre pour petit trône, ça a toujours été assez comme, chacun son royaume, sa zone, personnage de drôle, carnage, je drôme, petite vie sans arôme, hypocrisie, sale somme, ça se parle mal, ça se regarde pas, ça pas grave, moi je crave, on grade, dans vos crades, je prends un rap crade. 2004, c'est l'appartement mental avec toujours plus de armes, jamais avec calme, je m'acharne sur ce qui parle. Marche dans mon fat, on te pour 2 grammes, on te braque pour 10 balles. On te menace pour que t'ailles là où je te nargue, où je me marre même si je nage. Là t'en prends pour ton grade, toi tu veux qu'on fasse face à nos vies qui se dégradent. Ils voulaient juste laisser leurs traces dans un monde strass et paillettes. Mais quand vient un coup de grâce, la mort se trace, l'amour se gâche. Le cœur en miettes, un malin tout rame. Quand je te faut tirer par rate, quand la haine gâche, toi qui parade, un peu souple escapade. Mais y'a pas de thème, parce que trop de haine, trop de peine, ça vit, tu me fais malade. La mettre, lyrique violent, dépourvu de thème, équipolant, décousu, faussement ambivalent, époux d'une euphorie permanente, au cœur rempli de peine, la tête pleine de souvenirs et de pertes, je souris et je saigne, je t'aime et je pourris, la quête nourrit mes cernes, les questions de courir et forcer les portes de l'Éden, alors que tes yeux me nourrissent et que mes craintes escortent ma haine, qu'on reste amer et que nos visages sont ternes, dans nos bouches et nique ta mère, frère, demande à peine. Si on se pète dans le système, je reste mandataire de la plèbe et de sa peine. Les problèmes commencent à peine. Je crie pourtant, je peine à faire entendre qu'on vit à peine. Que l'homme court à sa perte, qu'il se complète la corde au cou. Que pour beaucoup, l'échec est complet. Que le temps nous est compté. Que je suis mal acclimaté à cet environnement. Façonné par un malin climat, triste humanité. C'est pas pour ça que j'ai envie de me battre. Je tremble quand me vient à l'esprit la vraie nature, ce qui m'entoure. Les deux mesures, l'austérité de l'être. Et ce sentiment doux qu'est le souffle de vie. On dit que je suis fou à demi, je souffre de mille mots. Et ça si entre mes lignes, elle devient mal prodige. Pour les années 2000, on est né pour se haïr. Bene, bene, bene. Le prossime due tracce che DJ Bruntolo e quindi un'altra Radio Roma vi propone sono la prima degli High Finger e la seconda dei Dead Boy con la loro Beautiful. Mio padre mi ha accompagnato all'istituto. Anche nell'istituto erano finiti i favolosi anni 60. La suora mi ha messo a dormire dentro una stanza con altri bambini e di notte io mi sono pisciato nel letto. Il giorno appresso la suora mi ha detto che non sei un po' troppo grandino per pisciarti nel letto e io mi vergognavo di questa piscia che mi era scappata. Ma pure la notte appresso mi sono pisciato nel letto e la suora ha detto: quando la smettiamo di fare i bambini che si pisciano sotto? Gli devo fare un odino a questo pisellino. Il terzo giorno che mi sono pisciato non mi ha detto più niente. Quel giorno mi ha portato dal dottore, mi ha spogliato e io ho pensato che vedrai che adesso mi lecca la suora. Invece mi hanno messo sulla branda, mentre che l'infermiere mi teneva le gambe e le braccia. Il dottore mi ha detto che sei tu il bambino che ancora si piscia nel letto. Quando la smettiamo di fare i bambini che si pisciano sotto? La suora mi ha bagnato le tempie con i tamponi nell'acqua e sale. Poi mi ci ha messo le elettrodi. Il dottore mi ha detto pronto? E la suora ha detto pronto. Quando mi sono svegliato stavo nel letto e ci stava la suora vicino a me. Diceva il rosario. Poi quando ha finito la preghiera mi si è avvicinato. Mi ha detto che l'istituto è un manicomio elettrico. L'elettricità cura il cervello ai bambini malati. Dice che la malattia di bambini è la paura. I bambini hanno paura di tutto. Paura di topi, di ragni, di serpenti, paura del lupo, paura di mostri che arrivano insieme alla notte, che stanno nascosti dietro ad ogni angolo blu. Il manicomio elettrico accende una luce in questo buio. Con la luce scappano i topi, i serpenti, i mostri, i lupi e perfino i ragni diventano stupide bestie da schiacciare sul muro. Con la luce del manicomio elettrico scompare la paura nel cervello dei bambini malati, perché in verità è il buio che fa paura ai bambini e si può morire per la paura del buio. Can time once again. Come d'accordi, altre due tracce per voi. La prima è dei Bondage Various e la seconda degli italianissimi Le Case del Futuro. Io sono Nicole e sono nato negli anni 60, i favolosi anni 60. Nessuno voleva nascere negli anni 60, perché se eri nato in quegli anni ti costringevano a essere favoloso anche a te. Mio padre lo sapeva ed è per questo che non mi ha segnato all'anagrafe quando sono nato. Diceva che quando nasci negli anni 60 sei costretto a cantare tutte quelle stupide canzoni che parlano del sapore del mare e del sapore del sale. Mio padre schifava gli anni 60. Diceva che adesso sui retrocalchi c'è scritto che tutti gli italiani sono ricchi e si comprano il frigorifero e la lavatrice. Ma non è mica vero che è vero. Infatti noi stiamo ancora a fare i pastori in Abruzzo. E a forza di contare ste pecore ci siamo addormentati. Sono arrivati gli anni 60 e non ce ne siamo accorti. Ogni volta che mio padre gli nasceva un figlio non c'aveva voglia di andarlo a segnare all'anagrafe. Gli dava il nome e poi passavano i mesi prima che andava a segnare. Diceva che oggi ci sta la neve, meglio che non ce ne andiamo in giro a prendere freddo. Poi il giorno appresso, una bella giornata, e lui diceva che oggi c'è il sole e ci facciamo una passeggiata. Mica ci andiamo a chiudere dentro l'ufficio. Insomma, mio padre proprio non gli piaceva l'anagrafe. e per segnare tutti i fratelli miei ci sono voluti mesi. Poi sono arrivati gli anni 60 e sono nato io, e mio padre ha detto che non ti segno manco se arriva Gesù Cristo in persona col libro dell'anagrafe, mi scongiura di segnarti, non ti segno manco se Gesù Cristo viene a pregare a me, così il mio nome a 9 anni non sta segnato da nessuna parte. E io gli dico a mio padre che mi devi segnare che sono nato, se no quando sarò morto che ci scriverai là sopra la lapide? Però mio padre risponde: ma che ti importa? Quando sei morto mica ti metti a leggere quello che ti hanno scritto sopra la tomba. Non sei nato lo stesso pure senza st'anagrafe? E che ti serve il nome segnato? Ma che non lo sai come ti chiami? Dimmi cosa vedi in me dall'alto dei coronavirus. Black Rebel Motorcycle Club è la traccia che mi viene proposta da un'altra Radio Roma. E a seguire I'm Not Tube di Foods Face. Io sono morto quest'anno. Quest'anno ha aperto il supermercato. Tutti vanno al supermercato. Tutti tranne la suora. La suora schifa il supermercato come schifava la macelleria e l'ortolano, il salumiere e il fornaio. Ma pure la suora ha capito che al supermercato i prodotti sono buoni, che c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Così tutti i giorni io, Nicola e la suora andiamo a fare la spesa al supermercato. Per uscire dall'istituto ci stanno due porte. La suora apre la prima porta e restiamo tutti e tre dentro, una specie di limbo. La suora chiude la prima porta, apre la seconda e usciamo. Perché dice che l'istituto deve sempre stare chiuso, se no scappano i poveri matti. Ma in qualche modo noi dobbiamo entrare e uscire. Così ci siamo inventati sta maniera delle due porte, che una resta sempre chiusa e l'istituto è sbarrato come una cassaforte. Pure al supermercato ci stanno due porte, ma sono di vetro trasparente e si aprono da sole. Quando arriviamo, le porte di vetro scorrono nelle fessure d'acciaio con un rumore elettronico e la cellula fotoelettrica che si accorge del cliente e gli apre la porta. Negli anni 60, anche se erano favolosi, ste porte ce le sognavamo come i film di marziani che si mangiano le pasticche di pollo. Io, Nicola e la suora entriamo nel supermercato, ma tutti ci guardano strano perché la suora è vestita da suola e Nicola è vestito da matto. E io mi vergogno di entrare al supermercato con un matto e una suora. Io voglio essere un cliente normale e non l'impresario del Circo Orfei. E poi la suora scureggia, cammina nel corridoio e scureggia, perché la suora è sorda, le scuregge sue non le sente e si pensa che non le sentano manco l'altro. E invece tutti la sentono, perché non siamo mica tutti sordi come la suora. Solo che all'istituto c'è gente che caga per terra e nessuno si stranisce se la suora scureggia. Ma al supermercato tutti se ne accorgono e ci guardano storti. Per fortuna che poi se ne restano tutti zitti e fanno finta di niente. Fanno tutti la faccia distratta del tipico cliente che sta attento solo alla qualità del prodotto. Soltanto Nicola ci fa attenzione. Nicola le conta. La suora scorregge, Nicola fa 1. La suora cammina, scorregge, Nicola 2. La suora si siede, scorreggia, Nicola 3. Certi numeri li strilla forte. Dice 11 e la suora lo sente. Gli dice: che cosa sono sti numeri, Nicola? Intanto scureggia e Nicola 12. La suora dice che è proprio vero quando si dice che è uno dei numeri per dire che è matto. E scureggia e Nicola 13. Attraversa il corridoio come un treno a vapore. 14, 15, 16. Cannot fight it, all the world denies it. I'll be numb. your eyelids and let your demons run. Dall'album del 1982 The Prefab Messias e a seguire The Whiskey Feast. Marinella mi ha chiesto se ho visto qualcuno dei nostri compagni di scuola. Dice: hai rivisto Robertino Casoria? Io gli ho detto che non ho visto nessuno. Invece Robertino Casoria l'ho visto. Da 35 anni solo lui viene a trovarmi. Viene alla pausa del pranzo e mangiamo insieme. Adesso è diventato uno che studia gli insetti, ma non mi ricordo il nome di questo mestiere. Mangiamo e mi parla della libellula, che ha quattro ali e le muove indipendentemente una dall'altra, che si accoppia in volo mentre caccia e si nutre. La libellula è un capolavoro. Dice che ci stava uno che costruiva certi aeroplani che gli cascavano sempre e si è inventato una maniera per farli volare proprio imitando l'ali della libellula. Poi Robertino mi dice della zanzara che succhia il sangue per deporre le uova, che infatti sono le zanzare femmine che uccidono. Ma la sua specialità è il bidocchio della frutta. È una bestiola che passa la vita a succhiare la linfa e riprodursi. Dice che non fa nient'altro. La campagna è piena di bestie che si mangiano sto bidocchio, ma lui si lascia mangiare. Per lui la lotta per la vita è resistenza passiva. Ha capito che fa meno fatica a lasciarsi ammazzare piuttosto che impegnarsi per difendersi. Noi esseri umani perdiamo tempo a curarci le malattie e proteggerci dalla pioggia e dal freddo. Invece lui non si estingue solo perché si riproduce a rotta di collo. Robertino Casoria dice che se non venisse sterminato dal DDT e mangiato da altri insetti, in un anno il bidocchio della frutta infesterebbe la terra e la ingrosserebbe fino a fargli toccare la luna. Ora Robertino Casoria parte per un'isola in Sud America. Dice che lì non ci vive nessuno, ma è piena di frutta selvatica, infestata da questi bidocchi. È pagato per studiare sta bestia. Dice che si è scoperto che muore anche per un altro motivo. C'è una molecola che lo fa smettere di succhiare le foglie. Il bidocchio si lascia cadere, precipita e si schiaccia per terra. Mangia e scopa per tutta la vita. E se non lo ammazza nessuno, finisce che si suicida, proprio come certi poeti romantici. Go to hell! to you. You know who you are. Bring another one. I thought you were done, but you're telling me that it's far from over. And you and crew have come, and what you've begun, and I'll be agreeing that you're in this game. Hurry up, I'll be back if you want it for another round. Better make me crack before I can even hear out your ass. I slap my down, back down to the ground. Who are touching you? Ain't never gonna make it for your round. Me against me again, touching me again. Just when I thought that you would never want to see me again, be again, be again, screaming. Have you had enough yet? Cause I'm here in the double, you're up to me again. Don't you run, don't you cry, cause I'm tucking you in and it's gonna be a long night. Do you feel satisfied? Cause we're going on a ride and you better hang on real tight. Better hang on tight cause I'm going for a ride now. Hope you sell the tickets cause then that'll be the cash cow. Hit everything twice before you're trying to attempt this. Cause they may be a nice when you're crushed by the whiskey first. Open up my hate that I got to offer you. And for now I've been going cause all I had is coming through. And why am I the fate and you're gonna be the drinking high? Yes, you should've thought of that before you thought to mess with mine. Sure your face I can, now I'm going to enjoy this. When it comes to shit like you, you know the cause that I'm messing through. Your back is gonna break, your mind is gonna crack. You made a big mistake and there's no turning back. Don't you run, don't you cry, cause I'm tucking you in and it's gonna be a long night. Just a shout out to all those kids listening. It's time to die. Thought you impressed me, thought you would test me. You gave it all you got, but your God didn't impress me. Tearing through your face and the message is sick. Now you're covering the place and the crowds are getting sick. Now I wanna see a bleeding, do you know you're a screamer? Always stand up one laughing when you're sitting on a reamer. Well, you saw me coming, then you should have put your rest. Cause all the dirt we cover will be tribute from my fists. My fists. Feel me dying, so feel me dying. Don't you cry. È arrivato il momento della proposta di Peter Greenstone in collaborazione con i Silver. La traccia in questione è Space Elevator. A seguire, Chemical Distance con la loro Eternal Buzz. Ho salutato Marinella. Ciao Marinella. Lei pure ha salutato. Mi ha detto ciao Nicola. Era il 5 di aprile, quando siamo andati al supermercato senza la suora. Era un martedì. Abbiamo finito di fare la spesa che la suora era appena arrivata. Aspettava le casse. Siamo andati al direttore del supermercato e si è scusata che è arrivato in ritardo. Ha detto che per il papa polacco, che è morto. Poi si è informata se Nicola ha dato fastidio a qualcuno. Il direttore gli ha risposto che no, Nicola è uno tranquillo. Fa la spesa, riempie il carrello, parla da solo, ma non dà fastidio a nessuno. La suora gli dice che questo Nicola c'aveva la nonna che ci portava le uova e sua madre era una povera matta. Il padre invece era una sociale che d'estate lo lasciava in montagna con i fratelli, in mezzo alle pecore. E una volta è successo un fattaccio. Da quel giorno Nicola è stata all'istituto con noi. Abbiamo cercato di imparargli qualcosa, ma dopo 35 anni riesce solo a fare la spesa e a portare la terapia ai malati, che stanno peggio di lui. Per il resto è un povero scemo che parla da solo, ma non fa male a una mosca. Il direttore gli ha detto che in tutte le meglio famiglie ci sta la mela bagata, la pecora nera. Per fortuna che ci sta il vostro istituto che si prende cura di questi poveri malati. La suora allarga le braccia e mi dice che hai sentito quanto è paziente il signor direttore? Mo però cerca di stare tranquillo. Tu dici sempre Nicola, Nicola, Nicola, ma lo vuoi capire che Nicola sei tu? La suora alza le braccia e scorreggia e Nicola le conta in silenzio. We'll be right back. like the maybe. The line is tight through a hole in the sky. Step inside for the ultimate ride. On the space elevator. Through the sky, past the steel. Tethers tight, we're falling up to the new moon. Say goodbye to gravity. Say goodnight to the canopy. We're falling free tonight on the space elevator. Suit. Those cracks in the glass, those cracks in your mask, cracks in your mask, cracks in your mask, cracks in your mask, cracks in your mask, cracks in your mask, cracks in your mask. Close your eyes and let the wind pass out. Space elevator. In your mask, can I find my next look in my mind and chest, liver and lungs and just chasing down my blood trails? Really need to find my next, you could quite be perplexed, lasting through this life and next, hope this feeling never fails. Searching for what almost was, that new exclusive buzz, something tells me that I am on the right track, a voice from a seat, a gospel from one beat, so see what now I see, I want to get it back. Inside and look within, a sick and twisted grin. I wanna do it again. Where's my eternal buzz? The lighting's on my face. I'm looking every place. I'm laying all to waste until I find it. Here it comes, feeling it, hold it in. Somehow, what do you think of this? What do you think of this? my desire to cauterize and scorch and blaze, to sear away my wanting ways. Seething as I'm twisting, turning, seething as my rage is yearning, radiating heat and iron, combusting as the buzz goes higher. Where's my buzz? Can you help me? Where's my buzz? Can you help me? Where's my buzz? Can you help me? I can't seem to even find it, I can't seem to get inside it now. Da adesso in poi si va di traccia in traccia, e la traccia che succede la precedente è quella di Nicky Williams con Get Back in Your Cage. I poveri matti dormono, io e Nicola ce ne andiamo in terrazzo. Ci guardiamo l'istituto, per manco di notte si possono spegnere tutte le luci. È un fatto di sicurezza. I matti non possono restare al buio, perché il buio gli fa paura. Si può morire per la paura del buio. Ad ogni corridoio o camerata ci rimane una lampada al neon. Visto dall'alto, sto palazzone pieno di lucette pare un presepio, solo che qua dentro il bambinello non ci nasce. 2000 anni fa è nato, povero e dentro alla stalla. Ma non credo che ci avrebbe lo stomaco di nascere matto. Nicola si rolla una sigaretta e ne fa una pure per me. Gli piace di vedersi tutto sto planetario. Sorride. Dice che l'istituto è un condominio. Dice che è un condominio di santi. Dice, li vedi tutti legati sui letti, pare che si sono messi in posa per la fotografia del santino. Gli si ciancica la schiena, con le piaghe da decubito, e rancichisce la merda sui lenzuoli. Ma ai santi gli sta bene così, perché c'hanno la vocazione. Sono come i ragazzini, che stanno bene solo quando rottano e cagano. A forza di indignarsi ci hanno fatto il callo, e dopo tanti anni di terapia stanno tranquilli. Ma gli sta bene tutto. La pasticca marziana, la cura elettrica, il loro pasto di pane sputo. In 40 anni di manicomio hanno fatto pace col cervello. Questi sono santi. È gente che alla testa sua gli chiede soltanto di fargli il piacere di starsene sopra le spalle, per appoggiarci il cappello quando arriva qualche parente in visita. Io mi guardo sto paradiso malarico, questa palude dove l'unico cielo è quello che si riflette sull'acqua stagna. Il manicomio elettrico che ronza come un moscone fuori stagione. Il resto sono garze e medicine, urinali e barattoli di latta, cicche, mutande e pedalini. La suora ci passa in mezzo, attraverso un corridoio, si infila nella sua cella, scureggia e si mette a dormire. 51, dice Nicola, è l'ultima della giornata. Poi quando si sdraia non gli circola più l'aria, quando dorme non la fa più. Meglio così, se no mi toccava di stare sveglio pure di notte a contarla. Nicola dice, so proprio come i santi che stanno in chiesa, è un condominio di santi, so santi i poveri matti, asini sotto le lenzuola cinesi, sudari di fabbricazione industriale, e santa la suora che accanto alla lucetta del comodino suo si illumina come un ex muto, e il dottore, il più santo di tutti, il capo dei santi, è Gesù Cristo, che io gli dico che no, mica è Cristo, è uno scherzo, dico. Ma il dottore non c'ha la faccia di uno che scherza. Nella sua stanza all'ultimo piano dell'istituto si infila il pigiama e si mette nel letto. Pure lui dorme con la lucetta. Pure lui per addormentarsi si prende la terapia. Manco il dottore riesce più a dormire senza la pasticca marziana. Some, and it tasted like shit. of no meaning, and it's making me sick. I'm trying to help you, but you're being so slow. I need to tell you something you can know sooner. You say you're interested, but you're not listening. You're full of it. You should rather get back in your cage. Get back in your cage. Dall'Asia, qui Anartra Radio Roma, Shoaib Sadat. Io sono morto quest'anno. Prima di morire ho conosciuto Nicola. Nicola è uno che sta all'istituto da 35 anni. Quelli che abitano nella mia città finiscono tutti al manicomio. Qualcuno ce lo cura, qualcun altro ce lo rinchiudono. Per esempio mia nonna ci portava le uova e mia madre c'è morta legata al letto, ma ufficialmente Nicola non è né un infermiere né un matto. È uno che se lo cerchi registrato all'istituto non ci sta scritto da nessuna parte, perché nessuno lo ha mai segnato all'anagrafe. Quando lo hanno portato dentro non sapeva che il padre si era sempre rifiutato di sbrigare Stefano. Poi l'istituto si è accorto dell'impiccio burocratico, ma erano già passati parecchi giorni. Intanto Nicola era già diventato un malatino. Un matto che aiuta nei lavori degli infermieri in cambio di qualche sigaretta. Allora nessuno si è sentito di mandarlo fuori, così come non si è trovato nessuno che faceva la fatica di fare le carte per segnarlo all'anagrafe. Mosto Nicola è una specie di clandestino. Certe notti me ne vado in terrazza con questo matto di nome Nicola a fumarmi una sigaretta. Una notte ha raccontato come è entrato nell'istituto. È la storia di un matto. Non bisogna starci a credere a tutto. concludiamo questo podcast con la traccia di Wild Bests e soprattutto concludiamo con il frontespizio del libro di Ascanio Celestini, La Pecora Nera. Non mi rimane che raccomandarvi di fare i bravini. Ciao, alla prossima. Raccolgo memorie di chi ha conosciuto il manicomio un po' come facevano i geografi del passato. Questi antichi scienziati chiedevano ai marinai di raccontargli com'era fatta un'isola. Chiedevano a un commerciante di spezie o di tappeti com'era una strada verso l'Oriente attraverso l'Africa. Dai racconti che ascoltavano cercavano di disegnare delle carte geografiche. Ne venivano fuori carte che spesso erano inesatte, ma erano anche piene dello sguardo di chi i luoghi li aveva conosciuti attraversandoli. Così io ascolto le storie di chi ha viaggiato attraverso il manicomio, non per costruire una storia oggettiva, ma per restituire la freschezza del racconto e l'imprecisione dello sguardo soggettivo, la meraviglia dell'immaginazione e la concretezza delle paure che accompagnano un viaggio. che pensate che son matto? Eh sì, denarte degli rume. Down, down, down.